24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Ho visto un re. Se la discute? Ho visto un re. Un re che piangeva seduto sulla sella. Piangeva tante lacrime. Ma tante che. Bagnava anche il cavallo. Con il suo permesso, caro direttore, togliermi anche qualche sassolino rispetto a quelli che parlano tutti i giorni di deriva autoritaria. Deriva autoritaria delle nostre riforme è il nome che taluni professori un po' stanchi danno alla loro pigrizia. 32 che lui cena, povero re, e povero anche il cavallo. Sì, beh, ave, sì, beh, ave. Questo governo viene considerato da tanti incapace di fare le cose, ma capace di raccontarle come le comunicano bene loro, anche se non le fanno. Io ritengo che questo governo non sia stato bravo a comunicare quello che ha fatto. Questo è un governo che ha fatto molto di più di quello che ha comunicato e considero questo fatto un errore clamoroso. È povero anche il sacrista. Sì, beh, vabbè, sì, beh, vabbè. È il cardinale che gli ha portato via una pazzia. Oh, per Cristo! 32 che lui cena. Però se noi ci rivediamo tra 5 anni, quando la legge elettorale sarà stata non soltanto votata in terza e definitiva lettura, ma anche provata e sperimentata, accetto la scommessa, perché da qui ai prossimi 5 anni quella legge elettorale sarà copiata da mezza Europa. Lacrimava su calice di vino ed ogni goccia andava. Ecco perché sono 99 le settimane decisive per la riforma elettorale e continuano. Stiamo facendo la legge elettorale che, come ci ha detto Matteo Renzi, ci copierà mezza Europa. E quindi va fatta bene, va fatta per bene, va fatta senza che manchi nulla, con tutti i fiocchi fiocchettini. Perché va presentata, poi va fatta copiare da mezza Europa. Un governo che ha fatto molto più di quello che è riuscito a comunicare, lui che è accusato di essere solo un grande comunicatore dai suoi detrattori, eh? Il vescovo, il re, ripartenza sacchiana, come lo definisco io, amante del calcio, eh? Il contropiede di Renzi. 6:33 minuti, questo è 24 mattino, eh? Buongiorno a tutti, cari italiani debosciati e non. Buongiorno a Lorenzo Nespoli, redazione, al nostro Carmelo Lauricella in regia, visto che l'alpino ogni tanto sparisce, va a fare le scalate, che fa? A bere la grolla? Non lo so. L'ha messo di chiusura, cioè deve dormire fino a mezzanotte. Vabbè, quindi lui che si sveglia alle 4:30 sta sveglio fino a mezzanotte. Va bene, salutiamo anche l'alpino. Eccoci qua. Buongiorno, 6:33 minuti, voglio subito salutare il graditissimo ritorno di Veronica Gentili, ormai non ha capito in che cosa si è messo. È stato veramente un guaio. È stato un gravissimo errore dire sì la prima volta. Pensavo fosse uno scherzo, ho detto vabbè dai, capiterà una volta, niente, sì, finita così. Niente, così, capita quando uno piace, come dire. Meno male, Gentili. Consoliamoci così, con l'aglietto, come si dice a Roma. Ecco, ancora ti svegli adesso, hai imparato a svegliarti alle 6:25. No, ma da adesso mi alzo tutti i giorni alle 6, no? L'importante è crederci. Vabbè, alle 6 siamo riusciti a fare puntare la sveglia Veronica Gentili alle 6. Veronica Gentili del Fatto Quotidiano, poi apriamo il Parlamento, dai, che Veronica, ti voglio presentare invece una che ormai ci dorme qui adesso in casa con il nostro grande sommo piacere, è lei. Sarà l'aurora. Sì, perché la tizza è Rosa Ramazzotti. Allora, l'aurora. Molto, Aurora molto, Lussana, sì. Buongiorno. Un saluto a te, caro Milan. un caro saluto agli amici di Radio 24, un saluto a Veronica. Eccoci. Buongiorno, piacere. Buongiorno. Aurora. Adesso Veronica, dici piacere all'inizio, poi magari quando ti parla un po' di Salvini, poi dopo non dici più piacere. Per ora sono solo invidiosa dell'intro musicale, proprio. Non lo so, sai, sarà Aurora. Me lo merito, bisogna guadagnarselo sul campo negli anni. Ma no, adesso indagheremo su di te, cercheremo di capire chi ti piace, cosa, però sai, sarà l'Aurora, è talmente lì. Questo è talmente lì proprio. Gliel'ha dedicata a lei, non lo sapevi? Certo, non immaginavo. Tutti in retroscena sulla vita di Ramazzotti. È chiaro. Ha un passato da leghista Ramazzotti. Non sapevate questa cosa. È un romano che ha lasciato Roma per la Brianza e Milano. E poi non vorrei dirlo, ma ha sposato una bergamasca della Valseriana, quindi tutto torna. Vedi? Ha sposato. A proposito di matrimonio, attenzione, perché come Veronica, forse tu non lo sai, ma Aurora si sposa a maggio, a giugno, non abbiamo capito bene, perché tiene le cose un po' misteriose. A giugno, come se riuscirà a nascondere questa cosa. Ma è giusto, i grandi matrimoni si nascondono, no? Sì, come certo. Le date. Va a Monte Carlo a fare queste cose. Esatto, fa concorrenza agli altri grandi matrimoni. Comunque, la notizia pare che Aurora Lussana abbia passato il corso per fidanzati. Sì, ho l'attestato di frequenza del corso prematrimoniale fatta. Ringrazio ovviamente la curia di Milano. Ringrazio la curia di Milano, vabbè. Ormai ci siamo. Grazie, diocesi. Ormai ci siamo. Che dice Veronica? Dice delle cose terribili sul matrimonio, Aurora Lussana, in privato, ovviamente. Dice delle robe, cioè praticamente è quella della linea, siccome, vabbè, ormai è come il calciatore, appendo le scarpe al chiodo e mi sposo. No, il tanga al chiodo, si dice per noi donne. Sì, vabbè, non volevo dirlo io. Ma forse questo sarà l'unico argomento su cui siamo d'accordo. Sì. Ecco, subito così. Allora, dai, vi voglio interrogare come i prof su Renzi. Vabbè, Aurora, cosa c'è che non va? Renzi dice che non è un dittatore, lui decide, va bene? Ma no, dai, lo sai anche te come il principe fiorentino. Lui dice che ha preso l'interim, le infrastrutture, mi pare che abbia preso ormai l'interim della democrazia, della Repubblica. Ma sì, ma dai, lui adesso c'è questo metodo, l'hai visto, no, con Lupi? Sì. Un metodo antico, un metodo che ci riporta al rito del sofà, a me piace chiamarlo. Quale metodo? Chi ha accesso al suo salotto, alla sua casa e nel circolo dei suoi amici, chi è intimamente fedele a lui viene difeso, tutelato, e gli altri sono tutti pronti a essere sacrificati sull'altare del renzismo. Eccolo lì. Per cara Veronica, per Aurora Renzi è un dittatorello, parliamoci chiaro. Il principe. Io l'ho sempre pensato, eccolo, l'ho sempre detto. Il problema, no, ma su questo siamo sempre stati tutti d'accordo. Il problema è che è talmente basso, no, il livello, è tale la pochezza di tutti i suoi oppositori su tutti i fronti, che più andiamo avanti, più il fatto che lui sia un dittatorello appare meno grave, capito? Cioè, dopo essere stata la riunione della minoranza Dem, no, il convegno che c'è stato al di là della sinistra, ho detto no ragazzi, cioè, meno male che è lui che parla e basta. Io vorrei trovare qui qualcuno che non parla e basta. Tu sei andata a sentire, hai sentito D'Alema, quindi. Sì, sono state 6 ore indimenticabili, veramente. D'Alema che dà dell'arrogante a qualcuno, vabbè. No. È stato anche molto applaudito e devo dire che all'interno di quel contesto è ancora molto ben voluto, cosa che non mi aspettavo assolutamente. Invece ha ancora un enorme ascendente su tutti quanti. Invece vedi, torna D'Alema, ma no, funziona lì dentro, è così, ma il problema è che parlano tutti e basta, quindi poi dire a Renzi che parla, ci fosse qualcuno che non parla e basta, cioè la demagogia imperante, capito, la dittatura dell'opinione, sì, no, come diceva ieri, è un po' così da tutte le parti. Siete d'accordo anche su questo, cioè che Renzi è un dittatorello, però attenzione per la nullità dell'opposizione, quindi Veronica c'è nell'opposizione anche? È chiaro, certo, vabbè, questo era il sottotesto iniziale. C'è Salvini anche, ovviamente. C'è la venga, era la premessa di partenza. Arriviamo al punto, cara Aurora. C'è anche la Lega che non conta nulla. Sì, se quello è il sottotesto, andiamo all'ipertesto. Se non ci fosse Salvini, non ci sarebbe nessuna opposizione alla deriva renzista in questo paese. Eccolo. È l'unico salva che è lì, che il baluardo. Ma non a Renzi, ha fatto l'opposizione a Letta, ha fatto da solo anche. Pensa all'opposizione a Monti, la Lega era da sola contro il professore Loden, no? Mentre anche il Sole 24 Ore, sì. Così mi caccerete per sempre, ma diceva, no, Monti fai presto, hai visto, no? Ma figurati se ti cacciamo. Però, posso dire una roba, ieri è stato coraggioso il Sole 24 Ore, che ha spiegato bene la truffa ai danni degli italiani. IMU. Vabbè, ma adesso sei democristiana, prima critichi il Sole e poi fai subito un elogio. Fai la democristiana, prima critichi il Sole e dopo un secondo lo elogi. Ma stupito, sai, perché insomma che lo dica il Sole 24 ore che... Ma bello, ma sai che l'ho ritagliato quel... Incorniciato! Praticamente, no... Te ne regalo una copia autografata per il matrimonio, se vuoi, di del numero di ieri. Ti faccio una... Il Sole 24 Ore si è stupito dell'evoluzione, ha detto proprio regressiva, a danno dei più poveri. Sì. Dell'IMU. E questo proprio secondo me è il sigillo che ci racconta l'anti-socialità delle riforme. Vabbè, ma guarda che Salvini lotti tutti i giorni su questo, sei d'accordo? Ma perché anche oggi ho aperto il frigorifero ed è spuntato Salvini. Ma in realtà ci si è proposto anche come sindaco di Milano adesso. Sì. Siccome ci mancava, no? Non lo vediamo abbastanza, lui ha detto se servo io milito anche qui. Faccio. Intanto fa l'eurodeputato, sindaco di Milano, segretario della Lega e va bene così. E nel frattempo facciamo campagna elettorale per cercare di prenderci il paese da Roma. Quando l'Aurora si zittisce è pericolosissima, Veronica. Adesso sta per dare una zampata di quelle. Che c'è, no, Aurora? Aspetta, mi sarà aggrumato tutto col mangiare un attimo. Scusa, c'è stato un problema tecnico. Ragazzi, un attimo. Stavate parlando di Salvini, sì. Quello lo sentivo. Mamma mia. Stavamo dicendo cattiverie su Salvini. Stavamo parlando bene di Salvini. Benissimo, come sempre. Ma cosa stai cucinando? Ho capito, ma lei cucina alle 6 del mattino. A quest'ora hai capito, però, invidia, si sta preparando a fare la moglie. Vabbè, ma appunto, è una donna bergamasca di quelle efficienti. No, è che non era caldo abbastanza l'olio. È andata giù la frittella. Vabbè, niente. Ah, addirittura cucini, friggi di mattina a quest'ora. Come il personaggio di Corrado Guzzanti che friggeva tutto alle 6:30. Siamo al delirio. Allora, ho due bellissime donne qui ospiti. Allora vorrei sapere un vostro giudizio su colei, l'onorevole Mussolini, già sapete, No, vabbè, dai Aurora, non dire così. Che ha tirato in ballo la De Girolamo, proprio una battaglia tra donne. Chiudo con la De Girolamo. Ammazza questa, che faccia! Scusatemi, però sono avvelenata. Allora la De Girolamo fa berlusconiana che non si capisce e non si capisce manco come è diventata deputato. Uno. Allora non c'è, per io lo so ma non ve lo dico. Allora un certo c'è di mezzo qualche orsetto. Allora un certo l'orsetto. Punto berlusconiana. Mamma berlusconiana. Mia, che vorrà dire Veronica? Che può voler dire? Il cattivo gusto è imperante, quindi. Ma la Mussolini è così, è più forte di lei. La cosa che ti spiace è che io mi sono anche sperticata sempre così nel mio essere naif quando sono successe tutte gli scandali legati al marito, a dire però no, la vita privata poi non c'entra, non bisognerebbe strumentalizzare queste cose perché uno si dimentica il cattivo gusto e poi si ricomincia ogni volta così e dici vabbè, alla fine devi difendere anche De Girolamo, mamma mia, tutto ci tocca fare a noi, se la ballano, se la cantano e se la suonano. Mamma mia, esatto, tu donna che devi difendere la De Girolamo, avresti mai pensato? No, nella vita no, anzi, sono lì tutti i giorni che mi interrogo su che cosa facciano le bocce insieme, perché, capito? Perché lui lo vedo lì fa l'Amleto nella minoranza dei Dem, torniamo su, e poi sta con la De Girolamo, una coppia che... Vabbè, ho capito. Sarà sbocciato l'amore tra Boccia e Di Girolamo. Che devi fare? Però no, vorrei sapere da Aurora Lussana, ma metto il carico da 90. Sempre sulla Mussolini, la Mussolini. Sì, senti un piace. Po', senti, non ti piace. Adesso ti piacerà un po' meno, senti un po'. Basta. E basta pure di Salvini, quanto è brutto con quell'orecchino. È brutto, è sgradevole. E ricordatevi che è sempre stato secessionista, bugiardo, che adesso è per l'Italia. Bugiardo, voglio vedere con se bugiardo. Voglio vedere con quell'orecchino. L'orecchino lì, lo strapperebbe. Sì, lì insinua che siccome c'ha l'orecchino, chissà che orientamento sessuale c'ha. Ma no, vabbè. Secondo no, me non lei è l'orientamento sessuale. Ma no, Salvini pare che anzi sia, insomma. No, la Mussolini ha una fortuna straordinaria, che è la nipote di una donna meravigliosa, un'attrice straordinaria, che io adoro, Sofia, che è Sofia Loren. Si poverina faccia dare qualche ripetizione, già dalla zia. Sì, ecco, infatti, la meraviglia della natura. Ecco, si faccia dare un po' di ripetizione di recitazione dalla zia, qualche lezioncina, e così impara un pochino meglio il mestiere. E ripassi. Allora, bocciata e ripassi. Sì, devi imparare il mestiere. Devi imparare il mestiere. Più che altro uno evita di andare a colpire nei punti in cui è più fragile, no? Cioè, non continuare a tirare in ballo la vita privata altrui nel momento in cui... Sì, effettivamente cui, proprio no? con uno sprezzo del pericolo, ma Alessandra un po' Mussolini. Di masochismo, no? Dici, dai, allora, adesso sono in casa. Cos'è appunto, che prendetevela con me. Cosa gli è successo in casa al marito? Sì, appunto, questo appunto. Si diceva lo sprezzo del pericolo. Per questo, siccome era una cosa appunto di una gravità anche abbastanza estrema, una cosa che può essere anche, no, che ti può tacciare e bollare per sempre, uno dice no, lasciate fuori la moglie, lasciate fuori la famiglia. Così già c'era stato un attimo, c'eravamo un po', eravamo rimasti perplessi quando in realtà poi lei l'ha perdonato, c'è stato l'abbraccio, le cose, già lì un attimo ci si è divisi nel difenderla, dopodiché fa questi show e continua, no? Fermati. Comunque, cara Veronica, non toccare l'Aurora Lussana. Enzo da Latina, che è innamoratissimo, anzi dice sempre non mi saluta mai l'Aurora. Enzo da Latina, no, come se ne sentiamola, dice vai a Latina a conoscerlo, e dice non sfottere Veronica, visto che tu non saprai neanche fare pasta aglio e olio, quindi, ma come fanno già a saperlo, io dico vabbè, ma sai, sono così, hai toccato Aurora Lussana. Enzo da Latina si arrabbia, il traffico e ora Milan. Ma non saffogo, oh saffogo! 24 mattino. Voi giornalisti siete i fedeli e puntuali amplificatori della voce di quei delinquenti dell'Isis. Caro Milan, che cosa le devo dire? Che ormai non abbiamo più nulla da vendere. Però abbiamo una cosa molto importante, tante scorie e tanto veleno. La saluto cordialmente. Milan buonista, se mai dovesse accadere una tragedia in Italia simile a quella di Tunisi, saresti sempre contrario alla pena di morte, pur sapendo che in questo strano paese non c'è la certezza della pena? Tu piangi, se dovesse esserci la pena di morte. Abbiamo uno scoop per la trasmissione di Milan. È stato avvistato Lupi mentre ululava all'eclissi di sole e gridava: non c'entro niente io con l'eclissi di sole, non sono stato io. Ciao Milan. Ancora sti qui con la pena di morte. Oh, ma siete duri di comprendonio, ma si può essere sempre e comunque contrario alla pena di morte o no? Ma in qualsiasi caso non è che ogni giorno mi fate una casistica diversa, se ti ammazzano il figlio, se ti ammazzano la moglie, se ti ammazzano i due figli e basta. Oh, mamma mia. Siamo con Aurora Lussana e Veronica Gentili. Aurora, sai chi ho alle 8:15 ospite? Chi? Vorrei che tu facessi un commento in modo che poi glielo facciamo sentire. Cecil Kyenge. Ah sì, che va in Nigeria? Sì, come Salvini. Che copiona. Che copiona addirittura. Una copiona, scusa. È una copiona, perché questo gli faremo sentire. Ma dai un messaggio, vuoi dire qualcosa? Abbiamo fatto anche un dibattito qui tra te e lei. No, che continua a svolgere così la sua attività da eurodeputata nel mondo e vada a salvare l'Africa. No, cos'è? Va giù in Nigeria per Boko Haram, mi pare di aver letto, vero? Sì, non lo so bene, buon lavoro, ci mancherebbe. Mamma mia, Veronica è proprio urticante, è appena le nomi. No, guarda, magari ti denuncia perché dai l'agenda della Kenge, dici dove va, non si può, sai. No. La notizia è pubblica, mi ricordo sulla Padania. Ti ricordi Veronica quando sulla Padania facevano sapere la Kenge è qui, la Kenge è là, andate a trovarla, andate. Sì, certo che me lo ricordo. Era il nostro direttore Aurora Lussana, di quel giornale. Quello è stato il preludio all'inizio, no, della campagna salviniana, poi è stata tutta impostata così. Poi dopo Salvini dal frigorifero, Salvini al microonde, questa è la campagna salviniana. Vabbè, ma lo invitano sto ragazzo, non è che si autoinvita, perché lo inviti quando va. C'è la stessa strategia di Renzi. Esatto. Oh, bravo, mamma mia, cosa gli hai detto? Cosa gli hai detto? Salvini come Renzi? Gli hai detto questo, Veronica? Sì, che chi di annunci ferisce, di annunci perisce, questo è lo stesso discorso, quindi si ritrova dall'altro lato un antagonista. Basta che ha la... vivi ghiaccio, brucia culo, basta annunci, vivi ghiaccio, brucia culo. Questo è il nostro ascoltatore mitico che con gli annunci non ha molto amore. Salvini come Renzi, l'accusa è pesantissima, di quelle, ti assumi le responsabilità. Me le assumo tutte, assolutamente. No, poi non Salvini come Renzi, perché dal punto di vista dei contenuti assolutamente no, e in quel caso sono costretta a prendere le parti di Renzi da tutti i punti di vista. Certo, però diciamo che dal punto di vista dell'approccio e della forma è la stessa modalità, quindi appunto ci si è accettati così. Qua intanto c'è una rissa, anch'io, mi scrive il camionista Giulio, adoro Aurora Lussana, ma citi solo Enzo da Latina, non so. Adesso si attendono grandi fan di Veronica Gentili, se volete. Possiamo dire Veronica, andare anche su Google e guardare, si può dire. No, uno perché dice Veronica Gentili, non la conosco, andate su Google, fate Veronica Gentili, immagini, ce ne sono tante, e poi fateci sapere la vostra. Che immagini? Questo l'hai detto tu, Aurora. È una bella tusa. Detto da una donna fa sempre estremamente piacere. Sì, ma bella tusa, sai cosa vuol dire, Veronica? Sì. Insomma. No, che bella tusa. È una bella ragazza. Certo, vabbè. No. Volevo farti una prova di dialetto. Ma tu che dialetto parli, Veronica? Dove sei? Io sono romana. Roma. Romana. Vabbè. Sì, in realtà purtroppo i dialetti un po' così, i dettagli linguistici mi mancano. È Roma ladrona, però, comunque. Questo, che cosa vuoi che ti dica? I romani sono così, prendili come sono. Vabbè. Allora, sentite Lupi, ieri a Quinta Colonna da Paolo Del Debbio, parla ancora dell'orologio. Un orologio per una tesi di laurea, per uno che si è laureato, da una persona che lo conosce, l'ha visto crescere da 3.200 euro, e credo che sia un regalo che uno può fare. Un orologio d'acciaio, sì. Rolex, ma non importa, perché col senno di poi ovviamente avrei dovuto dire a mio figlio restituisce. Era 3.200, non 10.000 Aurora, insomma è un orologino, Rolex, 3.200 va bene. Che c'è? Ti sei zittita? Dove sei andata? No, perché stai facendo le frittelle? Devo rifare tutto. No, nel senso. Sono cose che succedono. Sono drammi mattutini che capitano. Le frittelle. No, la cutizza, che se l'olio non è abbastanza. La cutizza è una frittella dolce. Sì. Che poi faccio la crema quadrata e mezz'ira con un po' di grappa. E è andata giù. Ora si capisce tutto. Beve grappa, ora è tutto chiaro. È andato giù tutto. Mi si è attaccato al fuoco. Dicevate di lupi. No, è un dramma, non dicevamo niente perché dobbiamo chiudere, però ci lascia con questa immagine della grappa al mattino, va benissimo. No, ma quella è la crema della tremezzina, no? Che è ripiena della cutizza. Approfondiremo la prossima volta. Io vi devo abbracciare e salutare, Veronica Gentile, Aurora Lussana, grazie, alla prossima. 1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta.

e cioè giura di ignorare lo scontro e la carambola di veicoli innescata a sentire i molti testimoni da un suo mancato rispetto di precedenza. Insomma, dice, ero io alla guida da quelle parti, ma non ho causato la morte di questo ragazzo. È stato rilasciato ed è indagato a piede libero. Vi segnalo una straordinaria intervista di Selvaggia Lucarelli ad Alfonso Signorini, che fa un numero per i 20 anni di Chi speciale. Il direttore racconta il topless di Marina Berlusconi. Quando Marina mi chiamava diceva non pubblicare, non pubblicare, lei era contraria, io le spiegavo che tanto le avrebbe pubblicate qualcun altro, ma io sono l'editore. Sono stati 3 giorni d'inferno, lottai per le tette di Marina. E poi aggiunge Alfonso Signorini, vorrei farmi Fedez, vorrei, non è che è un debole, me lo farei, ci ho provato in tutti i modi ma nulla, mi ha dato un 2 di picche dopo l'altro. Sa com'è, io in ste cose sono un uomo medio, vedo un pettorale, 2 tatuaggi e non capisco più niente. Questo è Alfonso Signorini intervistato da Selvaggia Lucarelli, è un'intervista piacevole su Libero, la trovate pagina 17. Ma siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, un'intera pagina del Messaggero dedicata a che cosa? Un compleanno, i 70 anni di Gatto Silvestro. Ma chi se ne frega. Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan. Che devozzino via fuoco. Milan, il cagnas randaggio dell'informazione. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei? Quando parli, sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu. Allora, alle 8:20, ben ritrovati da Alessandro Milan, cari ascoltatori. Mamma mia, oggi a leggere i giornali c'è una sensazione di questa Italia immobile dove ci sono questi dibattiti sterili che di tanto in tanto rispuntano. Quello dei 3 mesi di ferie per i ragazzi, gli studenti. Il ministro Poletti dice vadano a lavorare 1 mese. Io ho fatto la battuta, sì, lavorate studenti finché potete e lavorate mentre siete a scuola, che per la disoccupazione c'è tempo quando avete finito la scuola. Comunque il dibattito è sempre uguale, lo psicologo che parla elogia la noia, Severnini che racconta non toccateci l'estate con i tramonti infiniti e le amicizie conosciute, Gramellini uguale, Cacciari che dice ma Poletti che c'entra con le vacanze degli studenti, e poi niente, non se ne fa niente. O sentite l'altra, beh, sapete, la notizia di cronaca, si è consegnato il presunto autore dell'incidente stradale di Monza in cui è morto un 14enne. Ha detto ero io alla guida ma non ho provocato nessun incidente, e tutti a parlare dell'omicidio stradale. Alfano ha twittato, Alfano è ministro dell'interno, ora basta, ora perché sono morte delle persone, ora basta, proporrò subito l'omicidio stradale in Consiglio dei Ministri. Ma noi abbiamo ripescato quello che il vice ministro dei trasporti Nencini 3 dicembre dell'anno scorso ci aveva detto. 3 dicembre è in commissione al Senato, la commissione ha preso impegno di vararla entro la fine dell'anno, inizio del gennaio del prossimo anno, dopodiché se non subirà modifiche andrà in aula. A quel punto il governo, una volta approvata dal Senato, avrà la possibilità di scrivere la norma in maniera assolutamente articolata e dettagliata. Cioè, per carità, l'iter parlamentare ci vuole, eh? Cos'è, qualche mese, metà dell'anno prossimo? Guardi, ci sono 2 strade, se utilizziamo la strada del codice della strada, per l'appunto l'impegno preso dalle Camere è di varare il codice entro la fine del prossimo anno. Sì. Stiamo valutando però una strada alternativa più veloce, il sostegno dal punto di vista giuridico legata esclusivamente all'omicidio stradale. Auguri cari italiani, vedremo. Ora il ministro dell'interno dice ora basta l'omicidio stradale, subito, ecco, altro che accuse di autoritarismo, di dittatura. Gli italiani forse hanno voglia di qualcuno che decida, ma decida veramente e le faccia le cose, le faccia. Ma noi vogliamo partire da un altro argomento. Voglio salutare un ospite che è con noi, un'eurodeputata, europarlamentare del Partito Democratico, è stata anche ministro del governo Letta, e Cécile Kyenge. Buongiorno, come sta? Bene, buongiorno, buongiorno a tutti. In partenza per la Nigeria, abbiamo letto, è vero? Esattamente, verso la Nigeria, appunto, per le prossime elezioni presidenziali. Senta, lì c'è un paese anche molto dove sappiamo c'è Boko Haram in alcune zone del paese, quindi Boko Haram che tra l'altro si è unito in questo fronte, no, al terrorismo internazionale, in questo fronte con l'ISIS a combattere l'Occidente. Le chiedo, c'è questa guerra che c'è stata dichiarata e l'Occidente la sta sottovalutando, secondo lei? Ma guarda, prima di tutto vorrei anche, cioè le elezioni si svolgono il 28 di marzo, insomma, quindi noi come compito dobbiamo andare a monitorare l'elezione, sì. Quindi potrò, seguendo il codice deontologico che ci è stato imposto, insomma, potrò fare dare informazione, ma non fare dei ragionamenti politici molto approfonditi, ma su questo spero comunque di vederci al mio ritorno. In questo momento sì, Boko Haram, come sapete, è stata una setta molto pericolosa, ma 14.000 morti, oltre 1.600.000 sfollati e soprattutto per quello che ha dichiarato, i suoi legami, i presunti legami che sono stati anche osservati, cioè con Al-Qaeda del islamico del Maghreb, con Al-Shabaab che è in Somalia, Al-Qaeda nella penisola arabica, cioè sì. Tutti questi legami che in qualche modo credo che noi dovremmo monitorare molto bene per il fatto che questo impero del terrore non ha confini . E si attecchisce in qualche stato dove non c'è uno stato di fatto, no? Vi do l'esempio della RSA, Repubblica Centrafricana, no? Cioè uno stato che è una vera emergenza in questo momento, un po' come la Libia, cioè se attecchiscono negli stati come questi, voi capite che insomma i rischi poi c'è, difficile. Anche perché l'Europa è vicina, ma l'accusa però è che l'Europa faccia poco. L'altro giorno Galli della Loggia per esempio diceva l'Europa si deve attrezzare a reagire anche con la forza, per esempio non c'è un esercito europeo, cioè non stiamo sottovalutando questa minaccia globale? Guardi, se da una parte magari siamo stati un po' tiepidi, dall'altra parte io direi bisogna comunque valutare una risposta all'interno di una strategia globale e internazionale. E quindi anche per quanto riguarda l'Europa bisogna comunque mettersi in posizione di coinvolgere anche le altre forze. Il fatto di poter intervenire con la forza io lo metto veramente per ultimo, prima di tutto anche per la mia ideologia che è sempre quella della non violenza, insomma questa io parto già da questo presupposto, ma soprattutto per un'altra cosa, cioè io sto andando in Nigeria e gli do l'esempio della Nigeria. La Nigeria per prime sono state mobilitate le forze regionali, quindi l'Unione Africana, i paesi che sono ai confini, che sono i primi minacciati, ma si sono già mobilitati. Più che altro credo che entrando in questa strategia globale bisognerebbe rafforzare quella che è l'intelligence, la strategia di intervento, ma le forze sul campo ci sono, ad agire per esempio contro questa forza estremista ci sono Chad, Niger, Camerun, Nigeria, hanno ricevuto già dei finanziamenti per esempio dell'ECOWAS, un'organizzazione regionale economica, insomma, del centro dell'Africa, quindi non stanno ad aspettare l'Europa, ma piuttosto l'Europa non deve guardare dalla finestra. Io credo che anche il fatto di poter andare lì come osservatrice, perché siamo in 7 persone che andiamo con questo compito ben preciso, è un segnale per controlliamo la democrazia, controlliamo i processi democratici. Senta, le chiedo questo, Cecil King, ma sa chi va anche in Nigeria, ha annunciato che andrà in Nigeria, adesso mi odierà per questo, ma non è mai una coincidenza incredibile, sa chi andrà in Nigeria tra un paio di mesi? L'ha annunciato? No, mi dica pure. Andrà Salvini, Salvini ha detto che andrà in Nigeria, dipende dalle missioni, cioè io lavoro, sì, lei va a fare... io vado per lavorare per conto del Parlamento Europeo, non vado a fare propaganda, non vado, e la lavoro che stiamo facendo è proprio questo, cioè in questa strategia globale, cioè per lottare contro il terrorismo, ma anche per rafforzare altre vie, cioè di cooperazione, bisogna andare alla fonte, cioè agire sulle cause. La Nigeria è un paese che ha 180 milioni di abitanti. È il paese più popoloso dell'Africa. Il 75% delle sue entrate proviene dal petrolio, che in questo momento sta calando paurosamente, con un reddito medio che è di 1.500 e 70% della popolazione che vive al di sotto di 1%. Dunque, credo che il ruolo dell'Unione Europea, anche delle comunità internazionali, prima di tutto deve essere anche quello di accompagnare per sostenere una buona governance e la lotta alla corruzione, che è altissima in Nigeria, e poi è quella di rivedere anche i nostri accordi di cooperazione, soprattutto in quelle aree come il Borno, appunto, la zona dove è nata Boko Haram. Sì. Cioè, uno che fa politica a livello internazionale ha anche questi compiti, non semplicemente andare a fare le passeggiate. Insomma, non andrete insieme, no, ma lo mettevo insieme come cosa perché effettivamente l'ha annunciato una settimana fa, e c'è anche curiosità a capire che cosa Salvini andrà appunto a fare. Dunque io non so cosa vada a fare lì, però io, i miei compiti sono ben presenti, sono quelli di migliorare comunque una politica internazionale, una lotta contro ogni forma di estremismo, ma anche quella di poter lottare su fonti, insomma, di le cause del conflitto, ma secondo me anche quella di poter lavorare soprattutto sulle vie che devono essere quella della democrazia e della legalità. Ma questo certamente vedremo, perché aiutare la democrazia in questi paesi, non solo la Nigeria ma anche altri, e poi di riflesso fa bene a noi. Le chiedo questo, è proprio fondamentale. Su questo non c'è dubbio. Le chiedo questo, Chieng: continuano ancora gli insulti nei suoi confronti sui social network, oppure andando in Europa si è un po' allentata la pressione? Ricordiamo tutti, insomma, le vicende che l'hanno riguardata. No, sono aumentate terribilmente. Basta sono comunque fare un giro sulla la mia pagina, sia Twitter che Facebook. Io periodicamente le segnalo alla polizia postale, le segnalo alle autorità competenti, perché purtroppo. Ma come mai? Cioè, lei si è data un giorno, si è guardata allo specchio e si è data una spiegazione vera di come sia nato tutto questo? Sì, guarda, io sono sempre stata molto lucida, anche abbastanza. Il punto non è Cecil Chieng, il punto è la negazione di un cambiamento di una società, di una trasformazione della nostra società. C'è gente che non vuole capire che l'Italia sta cambiando, che l'Italia è ormai un paese di immigrazione, e come tale noi dobbiamo darci delle regole, noi dobbiamo darci anche dei criteri di convivenza, che non devono arrivare così come per magia, ma vanno costruiti piano piano. Purtroppo questo processo non è stato accompagnato dal mentre sul territorio in alcune zone noi lo vediamo di fatto, ma ai livelli alti, quando io vedo rappresentanze istituzionali a livello alto, no, metto il mio eterno amico nemico Calderoli, no? Sì. Che esce fuori dicendo quella, certo che ha sdoganato l'insulto, cioè è la questione dell'orango, la questione dell'orango. Ma se non sbaglio, sì, un leghista è stato anche condannato per questo, un leghista credo. Sì, io ho una decina di casi che ho portato in tribunale per cominciare a far capire la responsabilità di qualcuno che ha un ruolo politico, che riveste un ruolo politico, che deve essere anche un educatore. Per quello che ho portato tutti quelli che hanno un incarico istituzionale in tribunale. Due sono stati condannati, e uno con una multa che dovrebbe pagare, quindi qui andiamo sempre sul condizionale, sì, dovrebbe pagare i 150.000 euro, che io ho già detto sicuramente quella cifra sarà messa a disposizione della causa. Tratta di Fabio Ranieri, credo, ex consigliere della Lega. Esatto, sì, vicepresidente del Consiglio. Ma per esempio, per capire l'aspetto culturale, sa che in Italia, non so se ha sentito, c'è un dibattito proprio di questi giorni, di ieri, sull'utilizzo degli oriundi nella nazionale di calcio. C'è una polemica se utilizzare quelli che sono nati all'estero, c'è l'ultimo caso di Eder, come ci fu anche il caso di Balotelli, che però è nato peraltro italiano da sempre. Invece sugli oriundi, è un dibattito che la appassiona o rientra un po' nel discorso che lei faceva? Sì, no, guarda, è un discorso che ho sempre portato parallelamente insieme a quella della cittadinanza. Io credo che l'Italia comunque deve rivedere lo ius sanguinis, cioè è l'unico paese che arriva fino alla settima generazione. Dunque ci sono paesi che arrivano alla seconda, alla terza generazione, l'Italia arriva alla settima generazione, dove noi vediamo alla settima generazione vuol dire 1860, basta che uno ha un bisnonno, no? E va, anche se non parla italiano, insomma, quindi tutte quelle polemiche che noi vediamo qua sul territorio che danno la cittadinanza a qualcuno che non parla italiano, in realtà non è così, perché chi magari non ha mai messo piede qui ha un bisnonno, è da un'altra parte. Questo è solo l'aspetto marginale, perché poi c'è un aspetto che non viene mai toccato, la parte sociale, la parte della pensione, da parte di chi magari fino alla settima generazione poi improvvisamente, insomma, prende la cittadinanza italiana. Io credo che va regolamentata parallelamente a quanto stiamo facendo per la cittadinanza. Fino alla terza può passare, ma fino alla settima l'Italia è l'unico che ha un sistema di ius sanguinis puro. Che andrebbe secondo me cambiato. Intanto io la ringrazio ovviamente, in bocca al lupo per questa missione importante di monitoraggio della Nigeria. Ci sentiamo magari quando torna a capire come è andata la situazione lì. Grazie. Bocca mille, al lupo ovviamente giornata. Cecil Chienghe, che è stata con noi alle 8:34 minuti. Noi siamo pronti ad andare in pubblicità, ma tra 4 minuti siamo nuovamente in diretta, avremo ospite chi? Parliamo di politica italiana. Sapete che oggi titolano i giornali ad Agrigento le primarie del PD, le ha vinte Forza Italia. Ma che vuol dire? Ha vinto Silvio Alessi, che secondo alcuni però è di estrazione di centrodestra, e avrebbe vinto le primarie del PD. Boh. Sarà nostro ospite tra poco Silvio Alessi insieme al nostro Vincino. Allora, alle 8:39 minuti, vogliamo conoscere da vicino il protagonista di una vicenda che è raccontata dai giornali così: vince le primarie del centro-sinistra un uomo di Forza Italia. Una cosa che sembra assurda. Si tratta di Silvio Alessi, che è un imprenditore e anche presidente di una squadra di calcio, l'Acragas. Buongiorno, ha vinto le primarie del centro-sinistra, possiamo dire, Alessi, ad Agrigento. Benvenuto. Buongiorno a voi, sì, abbiamo vinto le primarie. Nettamente, devo dire anche. Nettamente, sì. Però, ecco, chiariamo subito, ma lei è di centro-sinistra come persona, di estrazione? Ma guardi, questa è una, come dire, è storia messa ad arte da qualcuno che onestamente non ha creduto in queste primarie. Si parla tanto di Forza Italia, però posso garantirvi che Forza Italia non fa parte della coalizione, questo è evidente. È una coalizione che è stata chiamata Agrigento 2020, che è composta dal PD, dal PDR, da Voce Siciliana, sì, un movimento civico che si chiama Patto per il Territorio, e da diverse distinzioni. No, certo, Forza Italia non c'è, ma lei come persona, perché dicono che sia di estrazione di AN, cioè lei politicamente ha mai votato Berlusconi, per esempio? Ma guardi, io sono un imprenditore libero e un cittadino libero che non ho nessuna tessera di partito. È chiaro che nel passato magari la preferenza è stata data a volte a uomini di destra, ma anche di centro-sinistra, quindi non appartengo a nessun partito. Quindi qualche volta l'ha votato anche Berlusconi, ma non è qualche volta l'ha votato. E come la mettiamo però? Perché lei ha una coalizione di centro-sinistra da guidare, no? Questo sì. Ma guardi, io oggi penso che guidare una coalizione di centro-destra e centro-sinistra non è importante, perché Agrigento è importante che abbia delle persone che amano questa città e che finalmente la portano fuori da questo immobilismo. Quindi a prescindere da centro-destra o da centro-sinistra, secondo me bisogna trovare delle persone che possano Lei ha fatto le primarie del centro-sinistra, mi perdoni, cioè uno. Ma che guardi, non sono le primarie del centro-sinistra, perché ci sono anche dei movimenti civici e delle liste civiche. Finalmente ad Agrigento è stata data la possibilità agli agrigentini di scegliere il loro candidato sindaco. Io ho accettato di fare queste primarie perché sono uno strumento meraviglioso, uno strumento democratico, sì, che possono permettere finalmente ai cittadini di scegliere il loro candidato sindaco. Questo sicuramente, sindaco. Il fatto che però lei sia ha fatto le primarie, diciamo, nel centro-sinistra, uno si aspetta che. Però guardi, Alessi, io le voglio presentare un suo conterraneo, un amico di Radio 24, è Vincino, il nostro grande Vincino. Buongiorno Vincino, come stai? Buongiorno. Allora, Vincino, ma guardi, sto un po' così, che c'è, sono un po' confuso. C'è il patto di qualcuno, dice Vincino, guardi, hanno fatto il patto del Nazareno in Sicilia. No, siamo più avanti del patto, infatti là là abbiamo un immobilismo che dura da 2500 anni ad Agrigento, praticamente un immobilismo di quelli antichissimi, no? Sì. E poi è bello che questo è siamo al futuro, no? Il prototipo dell'uomo politico siciliano, no? Che è quello che non è di destra, non è di sinistra, è di gestione. Quindi è l'uomo politico, regione, è, no? L'uomo, è l'uomo politico del futuro. Assolutamente sì, è un gender là, come si dice, la teoria del gender del coso, non è più né uomo né donna né cosa, è qualche altra cosa. Non è né di destra né di sinistra. Le piace Alessi come lettura essere un politico né di destra né di sinistra, un politico che fa il bene della società civile. Ma è chiaro, oggi io non, come dicevo prima, non appartengo a nessun partito, sono un uomo che mi sono messo in gioco e ci ho messo la faccia perché credo di poter sicuramente rappresentare la maggior parte dei cittadini e che non hanno bisogno di beghe politiche o di polemiche, oggi vogliono solo la rinascita di questa città che credetemi è giunta ai limiti. Ma Renzi l'ha sentito? Renzi, perché pare che Renzi non sia molto contento di questa ambiguità, diciamo, di dire non essere né di destra né di sinistra. Guardi, io le posso dire che qui non siamo in Parlamento, non siamo neanche all'Assemblea regionale siciliana. Qui ci sono partiti e liste civiche che hanno dato un progetto amministrativo. Chi ne fa parte se ne assume la responsabilità di dare una volta per tutte un futuro a questa città. Sì. Vabbè, Vincino, che cosa c'è di male che vedi in tutto questo? Niente, anzi, tu dici no, è il futuro. Ma io non capisco una cosa, perché sì. Roma si governa insieme al centrodestra. Appunto, e infatti, diventa un ma guarda, che è quello che le ha detto Vincino, che voi che siete avanti già in Sicilia, no, Vincino? No, niente, non... A Roma non si governa con il... A Roma governa là, governa Renzi e basta, non è che c'è il partito unico praticamente, non è che cioè, il centrodestra è così, è una ciliegina che gli hanno messo e se la tengono così tanto per, ma non è che la realtà è che, ma anche in Sicilia non è che in Sicilia si governa con il partito unico pure là, Ma unico della regione, dei soldi della regione. Sì. Ma perché dici Vincino che in Agrigento c'è l'immobilismo da quanto? Da 2500 anni. Ma cosa vuol dire? Che vuol dire? Una volta fatti i tempi là si sono fermati. Perché Vincino è di Palermo, parla così Alessi, sono rivali, sono campanilismi, queste cose qui è di Palermo e quindi capisce, fa un po' quello che è della capitale, ecco, no Vincino, fai così tu. No, poi bisogna dire anche, no, a Palermo poi noi abbiamo un altro grande politico che è Zamparini, non è che è quello che sarà il futuro pure là, il futuro capo del Partito Democratico a Palermo è Zamparini, basta che il Palermo vince altre due partite e via, cioè lui ha vinto grazie a Gazebo di fronte allo stadio, non è che è più quel giorno l'Acragas ha vinto con il Napoli. Di dov'è questa squadra qua con cui avete vinto? Non l'ho capito. Chi? Ma guardi, il Napoli hanno vinto con l'Acragas. Ma lei è presidente anche dell'Acragas. Guardi, sono sempre le solite sterili polemiche. Io non ho vinto con un Gazebo davanti allo stadio. Io in città ma c'era il Gazebo di fronte allo stadio. Perché ci sono le polemiche di aver preso voti davanti allo stadio dai tifosi. Ma guardi, io le posso dire una cosa: il Gazebo davanti allo stadio era in una zona dove una zona popolosissima di Agrigento, voglio dire, c'erano 10 gazebi in tutta la città e in tutti e 10 gazebi ho preso un numero straordinario di voti, quindi Alessi, mi perdoni, saranno delle elezioni un po' pazzerelle, perché candidato è lei che dice non sono fuori dai partiti, non sono di nessun partito, poi c'è Marco Marcolin che è un onorevole della Lega che vive da mesi ad Agrigento, l'abbiamo ospitato e si candida a sindaco. Alessi, che succederà a queste elezioni? Non lo so, poi del centrodestra chi ci sarà a questo punto. Ma guardi, succederà che gli agrigentini sceglieranno chi meglio li potrà rappresentare in base a dei programmi che siano trasparenti, che siano condivisi con gli agrigentini. È chiaro che sarà una campagna elettorale importante perché bisogna dare finalmente un futuro a questa città. Il futuro passa sicuramente non dalle polemiche e neanche dalle accuse che non esistono. Per esempio, una polemica che hanno fatto è che lei ha tenuto a dire: io non ho mai incontrato Dell'Utri. L'ha mai incontrato Dell'Utri o no? Assolutamente no. Io non ho mai dichiarato. Vincino. Dell'Utri lo incontravano solo quelli di Palermo, dai. Dell'Utri non è che era poi tanto. Cioè, lui avrà incontrato Michiche, probabilmente, non lo so. Non lo so, no, Michiche. Michiche. Guardi, io mi scusi, io non ho mai fatto politica, non sono mai stato candidato, non sono mai stato nelle segreterie dei partiti, quindi mi dica dove dovevo incontrare Dell'Utri, Micichè o altre persone che per me... Dice, ho incontrato Berlusconi una volta come presidente del Milan, lei era a una riunione, ma io che... ho incontrato una volta Berlusconi come presidente del Milan. Vabbè, che ormai l'Acragas e il Milan, glielo dico io che sono milanista, più o meno sono sullo stesso livello, quindi... magari. Capisce. Però Alessi, questa cosa, insomma, lei li ha letti i titoli dei giornali, tutti a dire che lei è un... cioè, vince, quando lei legge, vince le primarie del PD, Forza Italia, lei che come commenta? Guardi, io le dico che Forza Italia... Forza Italia nel senso uno di centrodestra, cioè lei. Io ho vinto le primarie come uomo libero e della società civile. Ecco, questa è una volta per tutte, dobbiamo chiarirla. Poi possono scrivere quello che vogliono. Le polemiche oggi io non sono mai entrato e non entrerò mai nel merito di queste sterili polemiche, perché sono delle sterili polemiche politiche. Insomma, Vincino, oggi, lui ha vinto, anche tu a dire che ha messo oggi il gazebo davanti allo stadio. Uno tutto era di fronte allo stadio e l'altro era pure vicino, ma le polemiche sono sempre sterili. Vincino, lei era ad Agrigento ieri? Eri ad Agrigento, Vincino? No, assolutamente. Allora, come fa a dire che uno era vicino e l'altro era vicino? Allo stadio, nella zona dello stadio, che è un quartiere popoloso di Agrigento, ce n'era uno. Gli altri hanno messo in tutta la città sparpagliati. Poi voglio dire oggi la risposta è arrivata dagli agrigentini. Insomma, ha vinto Vincino, adesso non è che poi... Ha vinto, ma lo sono felice io che ha vinto, perché è il prototipo del nuovo politico, questo qua. Politico, infatti, che detto, non ha mai fatto politica, che non è mai si è candidato e non fa parte di nessun partito. Che la mafia non l'ha votato. Questa cosa gliela devo chiedere, Alessi, questa gliela devo chiedere in conclusione. Ma è vero che lei ha detto, le attribuisco questo, la mafia da Agrigento non esiste? Guardi, io non ho mai dichiarato che la mafia da Agrigento non esiste, ma stiamo scherzando? È come dire che Brusca l'hanno catturato a Pordenone. È stata riportata una notizia assurda. È ovvio che la legalità e la lotta alla mafia sono i nostri punti fermi e saldi. Quindi da sindaco io sicuramente amministrerei con efficienza e quindi eviterò qualsiasi infiltrazione mafiosa e non, è chiaro, ma questa è un'assurdità. No, ma è chiaro, allora io le faccio in bocca al lupo, ovviamente Vincino, torneremo presto su questo tema, intanto la ringrazio Silvia Alessi, devo andare al traffico. Lavoratori! Eccoci qui, cari ascoltatori, come i lavoratori. Ci arrivano tantissime mail a 24 mattino e radio24.it, anche di persone che poi si vogliono mettere in contatto con i lavoratori che proponiamo. Tanti ci stanno scrivendo, per esempio, per l'ascoltatore di ieri che recupera cassonetti e li trasforma in casette per bambini, bellissimo, per metterli poi nei parchi giochi. Oggi voglio salutare quello che è un veterinario, mi risulta, Giancarlo. Buongiorno, fa il veterinario Giancarlo di base. Buongiorno, certo, buongiorno Milano. Veterinario. C'è una cosa che ci ha colpito, che lei ci ha scritto, cioè cattura animali vaganti. Che vuol dire? Cattura animali vaganti, io sono esperto di cattura di questi animali con cerbottane, fucili, animali più o meno di qualsiasi tipo. Vabbè, ma mica gli fa male, no? No, no, no, no, no, no, no, prende, no. Nel senso, cioè, per esempio, che vuol dire? Li catturo. Ma nel senso, gli animali vaganti, ma che vuol dire? Non so, un circo che perde gli animali. questo a me non è mai capitato, ma succede. A me capita, ad esempio, bovini che scappano da degli allevamenti, sì, vitelloni, oppure che ne so, cavalli sulla ferrovia. Ricordo che il veterinario che ci aveva raccontato dell'approccio equino qui ai cavalli, cioè ci vuole l'approccio equino, lei lo conosce? Il cavallo? Ma sì, lo conosco, in questo caso io sparo da lontano, quindi è un po' difficile praticarlo. Cioè praticamente mette l'anestetico e li cattura lanciando con le cerbottane. Esatto. Vabbè, e buona parte del mio lavoro è catturare serpenti. Che è una cosa abbastanza diffusa. Sì, sembra assurdo, una città come Roma. Perché lei è di Roma, la chiamano e dicono ho perso un boa. Sì, o serpenti come questi ti dice appunto lei, così tropicali, magari scappati da qualcuno, abbandonati, oppure serpenti, diciamo così, nostri, non strani, che la gente non è più abituata a vivere, a vedere. e quindi questi nuovi insediamenti, questi nuovi quartieri che crescono come funghi, fino al giorno prima c'era il serpente e poi c'era la persona, quindi non vanno d'accordo. Cioè quando arriva il serpente, lei che fa? Le lancia la cerbottana anche al serpente? No, il serpente si prende con delle pinze o con le mani, se è innocuo, insomma. Con le mani o delle pinze. Ma qual è l'animale più strano che ha dovuto catturare? Il geco leopardo, forse. Il geco leopardo. Manco sapevo che esistesse. Ma neanche io, ma che è il geco leopardo? Ma che è un geco bellissimo. È un geco bellissimo che ha questi colori leopardati. Sì, molto bello, molto bello. E geco leopardo? Iguane, animali di tutti i tipi. Si arrampicano sui muri questi. Sì, stava bravo, stava su un muro. Stava su un muro, ma è fantastico. Cioè, lei guadagna, vabbè, però guadagna come veterinario, però questa è la specialità che, sì, che ha portato. Sì, io faccio veterinario di campagna, come dice appunto il mio sito. E ecco, diciamolo il sito. www.veterinariodicampagna.it. Ah. Io mi occupo principalmente di bovini da latte, sono ginecologo di bovini da latte. Ah, fantastico! E quindi faccio ecografie ai bovini da latte. E poi parte del mio lavoro consiste in questa cosa. È bellissimo, quindi assiste ai parti, cioè fa queste cose qui, sì, fa nascere i cuccioli, di vitello. Sì. E quanta è la gestazione di una mucca? È 9 mesi. 9 mesi, ah, vedi. come noi, 9 mesi, noi, nel senso, esatto, non esatto, io e lei, ovviamente. Non io e lei. Vabbè, ma è emozionante vedere nascere un vitello? Sì, ancora oggi, devo essere sincero, ancora abbastanza emozionante. All'inizio della professione ero travolto dal lavoro, così ci facevo meno caso. Oggi che invecchio invece non faccio più caso. Però non ho capito il collegamento tra il ginecologo dei bovini e poi catturare il serpente. È una passione. Perché ho avuto un'esperienza decennale in uno zoo. Quindi lì ho fatto pratica. Ha messo insieme le due cose. Va bene, Giancarlo, grazie. Lavoro straordinario. Ginecologo di bovini e cattura animali vaganti. 24 mattino.